come dire, insomma, uno degli argomenti è questo, ma vogliamo anche parlare d'altro, perché bene o male sono poi tutte tematiche che vanno anche a confluire nelle lotte che portiamo in piazza e che portiamo nelle piazze, che ci abbiamo portato a ottobre e che speriamo di portarci in maniera anche più determinata, insomma, prossimamente. E direi che partiamo subito con l'argomento delle iscrizioni, visto che questo è il momento in cui in tutti gli ordini di scuola ci si iscrive. In tutti gli ordini di scuola ci si iscrive, anzi le iscrizioni scadono il 28 di febbraio. E partiamo innanzitutto da quello che è stata la novità e tutti i suoi aspetti estremamente pesanti di questa novità. La novità, ne abbiamo parlato l'altra volta, è l'iscrizione online per tutti i primi anni, per le classi d'ingresso della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, quindi elementari, medie e superiori. Già la volta scorsa avevamo dato conto anche attraverso proprio la lettura dei giornali delle difficoltà che comunque tutto questo aveva provocato, cioè il fatto che la modalità di iscrizione fosse esclusivamente online per quest'anno. Solo per tornare un attimo sull'argomento, le difficoltà continuano, ognuno di noi ha potuto parlare col personale di segreteria delle proprie scuole, e nella mia scuola proprio stamattina mi dicevano che di fatto la maggior parte dei genitori non sono in grado di orientarsi, diciamo, in tutte le richieste del modulo, per cui moltissime domande restano in sospeso e c'è la necessità che il personale di segreteria possa accedere a quella domanda per completarle con informazioni che possono essere per esempio il codice della scuola, che è una richiesta, diciamo, piuttosto particolare, che i genitori non sono molte volte proprio in grado di recuperare, e così via. Quindi ci sono disfunzioni e un aggravio notevole di lavoro da parte delle segreterie per le segreterie, nonostante quello le dichiarazioni del ministro, che ha parlato di risparmio e di agevolazione del lavoro per le segreterie. Però questo non è l'aspetto più grave. No, l'aspetto più grave l'abbiamo, insomma, l'avrete forse anche letto sui giornali, perché insomma almeno un parto c'è passato, riguarda figli e figlie di persone immigrate, perché abbiamo, insomma, è venuto fuori immigrate senza permesso di soggiorno, perché è venuto, quindi insomma persone che vogliono, scelto di vivere qui e che come dire, le nostre leggi assolutamente razziste e libertarie, insomma questo credo sia il mio ma il nostro punto di vista, impediscono di avere appunto quel pezzo di carta su cui si costruisce gran parte dell'accesso a gran parte insomma, dei servizi di una città, di uno stato, eccetera, ma non quello della scuola, perché il testo unico sull'immigrazione specifica comunque all'articolo 38 che hanno il diritto e il dovere di essere iscritti a scuola tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze in età dell'obbligo, a prescindere dallo stato giuridico dei genitori. Quindi su questo insomma la scuola è giustamente aperta a tutti, anzi il dovere c'è anche il dovere, insomma, di iscrivere bambini a scuola. E nonostante questo questa iscrizione online crea un grosso problema, lo crea per un motivo banale, che ovviamente è un format che va avanti a schermate, e ovviamente bisogna riempirla tutta la schermata per poter andare avanti, e immediatamente chiede il numero di passaporto, comunque di un documento, e per qualcuno è già un problema questo, ma diventa un problema per tutti coloro che non hanno il permesso di soggiorno quando si arriva al codice fiscale, perché chiede appunto il codice fiscale, queste persone non ce l'hanno e quindi non possono iscriverlo. Questa cosa è stata tirata fuori prima da Melting Pot, che è un'associazione appunto che si occupa di immigrazione, è passato sui giornali, se ne sono occupati in parte anche un po' i sindacati, almeno di fare rimbalzare la notizia. E il ministero si è subito premurato di dire che non è così, che non c'è problema, perché queste persone, solo loro, possono andare a iscriversi col cartaceo. E fra l'altro voglio dire, proponendo proprio una scappatoia, perché la via d'uscita sarebbe quella sostanzialmente di, perché poi anche la segreteria che si trova a recepire il cartaceo si trova nello stesso problema, cioè davanti a un format dove viene chiesto il codice fiscale. Allora il ministero dice sostanzialmente inventatevelo un codice fiscale. Cioè il ministero non dice niente, il ministero rimpalla il problema sulla segreteria dicendo che queste persone possono iscriversi col cartaceo, e sembra che già in situazioni precedenti, cioè con l'anagrafe della popolazione docente, della popolazione studentesca, il problema sia stato risolto inventando sostanzialmente da parte delle segreterie dei codici fiscali per gli studenti stranieri che non erano in grado, che non avevano la possibilità di produrne uno. Sì, però poi appunto anche se le segreterie magari con persone di buona volontà che cercano di superare il problema riescano a far iscrivere questi ragazzi, il problema rimane l'effetto deterrente all'iscrizione a scuola dei figli e delle figlie di immigrate, perché insomma chi si trova in questa temperie politica a non avere il permesso di soggiorno in Italia può anche avere paura di esporsi e quindi di andare in una scuola e sostanzialmente dichiarare di non avere permesso di soggiorno. Insomma sappiamo benissimo che anche solo per i discorsi che rimbalzano sui giornali ci sono persone immigrate che non vanno in ospedale per paura di, insomma, che vengano chiamate le guardie, di essere schedate eccetera, e anche questo insomma è, come dire, è un fatto molto grave, insomma, che non si sia pensato che questo potrebbe costituire un grosso ostacolo al diritto allo studio di molti e molte bambini, ragazzi eccetera nel nostro paese. E poi c'è appunto una sorta di stigma che a quel punto hai nel momento che non puoi seguire la prassi usuale, insomma, per tutti e tutte gli altri studenti e studentesse, insomma questo è sicuramente una cosa inaccettabile. Poi quando si dice sì, lo sistemiamo in questo modo, di fatto però ci si chiede, visto che ci sono commissioni di capoccioni, come si dice a Roma, che poi fanno questi programmi, nel senso che danno le indicazioni per poi fare questi programmi informatici eccetera, ma possibile mai che non ti è venuto in mente? È perché non ce l'hanno proprio nel cervello questo tipo di realtà, non la contemplano proprio. Un altro aspetto che è saltato fuori nella compilazione delle iscrizioni online è quella dei genitori non sposati, ovvero per andare avanti sulle pagine delle schermate, dunque mi sembra che se i genitori non sono sposati, ma non sono nemmeno, cioè non sono sposati e quindi ovviamente non sono né separati né divorziati, non è possibile mettere l'opzione dell'affido congiunto, perché questo ovviamente alla scuola, la scuola lo deve sapere chi ha la patria potestà, insomma com'è, chi ha affidato, perché ci sono comunque, guardate che nelle scuole si creano certe volte situazioni di ragazzi e ragazze, figli di separati, insomma abbastanza problematiche, cioè ci si trova a dover chiedere addirittura, questo è brutto, però la sentenza di separazione o di divorzio con l'indicazione di chi è l'affidatario del minore, perché poi tu ti devi comportare di conseguenza, cioè non puoi per esempio dare così all'uscita, no? Consegnare il minore a un genitore se quell'altro non è d'accordo, cioè ci sono questi, quindi è importantissimo che le segreterie abbiano questa indicazione, e in questo modo però c'è una discriminazione. Allora non sono contemplati i figli e le figlie di persone senza permesso di soggiorno, non è contemplato il figlio di persone che non siano sposate, questo non è sì, casuale. Quello delle persone non sposate l'hanno risolto, dicevano, però hanno comunque cambiato la bandierina, però insomma sì, quello era più semplice, però già è indicativo che queste cose non ci avessero pensato, insomma, perché comunque è brutto, no, che ti trovi davanti a una situazione del genere, anche se solo informatica. Sì, come dici tu, è proprio indicativo di un certo tipo di mentalità sostanzialmente, cioè di un tipo di mentalità che prevede una casistica tutto sommato limitata e comunque che si incardina rispetto a certi presupposti, per cui se tu non sei sposato effettivamente non rientri nella casistica, se sei un immigrato irregolare addirittura non puoi iscrivere tuo figlio a scuola. È anche peggio di così, cioè nel senso che rispetto a, insomma, alle coppie non sposate è, come dite voi, insomma, una mentalità molto chiusa, che non riesce a vedere il mondo nella sua larghezza. nella sua complessità anche. Per quanto riguarda immigrati e immigrate, la scuola pubblica deve necessariamente lottare contro la dispersione scolastica, cioè deve essere uno dei presupposti principali che ci tiene sul posto di lavoro la mattina e che dovrebbe tenere ancora di più i dirigenti a pensarsi delle cose, no? Perché si sta parlando di scuola dell'obbligo, eccetera. E invece qui si fa, proprio non ci si pensa. Ora, ci sarà dietro una volontà, non ci sarà una volontà, ci interessa e non ci interessa, questo è un dato di fatto, che invece di lottare contro la dispersione scolastica si creano situazioni che possano essere causa di dispersione scolastica. Sì, e non dimentichiamoci quello che abbiamo detto la volta scorsa, cioè che i finanziamenti, i fondi per recuperare il denaro che serve al recupero degli scatti di anzianità sono stati ottenuti tagliando anche i progetti contro la dispersione scolastica, quindi è evidente, insomma, che è proprio indice di una mentalità che non ha presenti quelle che sono le finalità fondamentali della scuola dell'obbligo. Stiamo parlando di ragazzi, di bambini che si iscrivono in prima elementare, che si iscrivono in prima media. E quindi, diciamo, è evidente questa, la deriva aziendalistica di cui abbiamo spesso parlato da questi microfoni, e se uno non è più, non fa profitto, se non è efficiente secondo i parametri, questa ottica, è evidente che può sfuggire, magari senza dolo, forse anche, però è un dettaglio, è un'estremità che non utile a questa idea di scuola futura montiana, tecnica, e quindi vabbè, non ci avevamo pensato, adesso rimediamo, però l'ostacolo intanto lo stanno mettendo. Non c'è più l'attenzione, forse è ancora più grave, no? La disattenzione piuttosto che il dolo, se mi posso permettere, perché non ci facciamo più caso, per noi diventa un dettaglio, vabbè, adesso vediamo, entro 24 ore o 24 anni risolveremo il problema. Non è più funzionale alla scuola del futuro. Ma io mi permetto invece di vederci del dolo, perché io ricordo anche tanti anni fa, quando ancora le normative sull'immigrazione non erano compiute, peggiorative nella fattispecie, io allora facevo parte di un'associazione che, carte alla mano, norme alla mano, anche le norme costituzionali, andava in giro per le scuole dove i dirigenti si rifiutavano di accogliere i bambini, figli di genitori non regolari. E purtroppo io, essendo precaria, ho fatto il giro di molte scuole. La discriminazione esiste all'interno delle scuole, anche da parte di personale dirigente, docente, non docente, e si crea un filtro anche attraverso le segreterie, quindi anche questo rimandare alle segreterie l'accettazione o meno del cartaceo, della compilazione e quant'altro, rimanda appunto a una soggettività di elaborazione, no? E quindi per me è grave, è molto grave questa cosa. Il problema è anche che tutto questo viene fatto passare come un miglioramento in termini di efficienza, insomma, no? Perché quello che ci viene propalato comunque da tempo oramai è che l'informatizzazione, se non altro, la digitalizzazione, la gestione informatizzata dei dati è un dovere di efficienza da parte nostra, e questo veramente richiederebbe una riflessione molto ampia sui termini dell'efficienza, su quanto questa efficienza diventi poi sfruttamento di lavoro, che diventa il lavoro sommerso delle segreterie, il lavoro sommerso delle persone che con buona volontà poi aiutano, eccetera, e ancora più ampiamente su come vengono compilati questi format digitali e con quali criteri, e per andare a escludere e a includere chi, perché questo diventa uno strumento potentissimo che accettiamo acriticamente anche in virtù di una propaganda alla luce dell'efficienza. Volevo dire anche qualcosa riguardo a come tutto questo ricade sulle persone che lavorano nella scuola, in particolare chi lavora nelle segreterie, perché nella circolare operativa che appunto dava il via a questo tipo nuova modalità di iscrizione, si dice chiaramente, proprio senza assolutamente nessuna possibilità di equivoco, che le segreterie devono dare tutta l'assistenza, anche addirittura installando aree informatiche ai genitori che devono iscrivere i figli e le figlie che hanno appunto difficoltà. Questo non riguarda le scuole secondarie superiori, licei, istituti eccetera, perché non hanno le iscrizioni in uscita, no? Però sicuramente riguarda le elementari e le medie. Questo significa, come è già avvenuto con l'informatizzazione dei trasferimenti, cioè della domanda, adesso c'è un portale all'interno del sito dell'istruzione che è un portale dove ci si registra sia per fare domanda di trasferimento, sia per fare domanda di pensione, sia per fare le domande di supplenza, poi si viene successivamente identificati, documento alla mano, nelle segreterie, e poi si accede così con una propria password a tutte queste operazioni. Questo ha portato un aumento enorme di lavoro invece che semplificarlo. Forse l'unico aspetto in cui poi alla fine il gioco valeva la candela è stato per le domande di supplenza, che invece prima arrivavano così a valanga sulle scuole e devono essere gestite dalle scuole. In questo modo praticamente il grosso dell'inserimento viene fatto tramite questa operazione, però gli stessi docenti, lo stesso personale delle scuole c'ha una grandissima difficoltà, magari molto dipende da una pigrizia, non lo so. Comunque tutta questa informatizzazione di cui si va tanto parlando, in realtà non c'è da parte di quelli che ne dovrebbero essere gli utenti. Per esempio, io ho visto che sul portale dell'istruzione, i primi giorni che era in operativa la modalità di iscrizioni online, loro con molta, cioè, come se fosse una cosa molto positiva, dicevano: il primo giorno 1 milione di contatti, 57.000 domande. Significa che 943.000 persone ci hanno rinunciato, quanti sono, insomma. E quindi è evidente, insomma, che sì, poi la difficoltà perché si intasa, ma questo è relativo. E questo ancora una volta significa un grosso carico addosso alle segreterie. Fra l'altro, da una statistica che ci ha fatto fare, tanto per non farci stare con le mani in mano, il ministero, dove noi dovevamo andare a dividere maschi, femmine, laureati eccetera, una cosa faticosissima, su 100 dipendenti, diciamo, ma prendiamo solo i professori, 80-85 insegnanti, e tra i 25 e i 35 anni ce n'erano 5, di cui 2, fra l'altro 2 o 3 annuali, 2. Tra i 35, 36 e 55 ce n'era praticamente la quasi totalità, e allora pure questo, insomma, oltre a renderti difficile, insomma, imparare delle cose, crea pure problemi a noi che nelle segreterie abbiamo lo stesso tipo di età, che non è che cambia tanto. Quindi insomma ogni volta devi imparare delle cose nuove, ti devi far carico su questo. Ci sono, insomma, diverse scuole dove il personale ATA ha cercato, insomma, di puntare i piedi e di dire: no, io sta cosa, pure questo mi devi accollare. È un lavoro in più che è anche pure snervante, che non ti va di fare, e così via. Torniamo in voce, questa è Radio Onda Rossa e l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola e parlano di iscrizioni, visto che questo è il momento per tutti gli ordini di scuola di iscriversi per l'anno scolastico prossimo, per il 2013-2014, iscrizioni che scadono appunto il 28 febbraio e che prevedono anche la possibilità di elargire da parte delle famiglie un contributo volontario alla scuola dove il figlio o la figlia è iscritto. Esiste una tassa piuttosto bassa, insomma, per l'iscrizione, che sono fatta di due parti, insomma, in tutto sono una ventina di euro, 15 e 6. Ma non si paga tutti gli anni, mi sembra. E poi c'è quella, insomma, dei 15 e 13, che è quella, sì, di frequenza. e questo sì, più o meno è un'imposta dovuta, insomma, che tutti e tutte pagano. Oltre a questo, tutte le scuole chiedono un contributo volontario che varia, fra l'altro, insomma, in genere viene stabilito una quota e a seconda della scuola varia, può variare anche di molto, insomma, ci sono scuole che chiedono 100, 120 euro, scuole che ne chiedono 50, 40, insomma, dipende dal tipo di istituto. Ma quello che almeno a me preoccupa di più è che siccome negli ultimi anni le scuole hanno sempre meno soldi dal ministero, è sempre più difficile mandare avanti le attività perché i soldi non arrivano. E spesso questi contributi, anche se dovrebbero essere utilizzati solo per l'innovazione tecnologica, per il miglioramento del POF eccetera, spesso sono serviti anche per mandare banalmente avanti la scuola, e spesso quindi, insomma, i dirigenti, le dirigenti cercano di fare il possibile perché tutti e tutti lo paghino questo contributo volontario, e questo fare tutto il possibile a volte sfocia anche nel omettere di dire che il contributo è volontario, cioè nel far passare che comunque per iscriversi si passa quella cifra senza stare tanto a sottilizzare, e questo ovviamente è inaccettabile perché stiamo parlando della scuola pubblica aperta a tutti e a tutte e ovviamente gratuita. Il contributo è e deve essere volontario, deve essere destinato solo al funzionamento ordinario, non al funzionamento ordinario ma all'arricchimento dell'offerta, ed è deducibile, detraibile dalle tasse. Insomma, questi tre elementi chi vuol fare, insomma, le cose con consapevolezza ce le deve avere molto presenti. È molto invalso invece il discorso sia tra lavoratori e lavoratrici, anche tra genitori, l'ho sentito fare, che insomma, se c'è bisogno di questi soldi perché star tanto a sottilizzare, in fin dei conti la scuola è importante, e quindi anche se facciamo pagare un po' di più eccetera eccetera. Ecco, ora questo è chiaro che anche questo è, come dire, dal mio punto di vista, una serpeggiante forma di privatizzazione della scuola, perché se per aprire una scuola io ho bisogno del contributo delle famiglie, questa scuola non è più tanto pubblica. Ecco, questo è il mio punto di vista. Sì, gli atteggiamenti da parte dei colleghi e gli atteggiamenti da parte dei presidi sono i più disparati. Tu facevi riferimento, diciamo, a una situazione che è quella di una scuola poco finanziata o quasi per niente finanziata, e quindi di persone che si trovano di fronte alla quasi necessità in qualche maniera di chiedere un contributo e surrettiziamente di imporlo, e questa è una posizione che abbiamo incontrato tutti tante volte e viene posta in maniera scorretta. Ci sono però anche persone che in assoluta buona fede ritengono che il contributo volontario, nel momento in cui viene deliberato dal consiglio d'istituto, non sia più volontario, cioè costituisca un obbligo, e insomma sono persone che conosco almeno personalmente, che costituisca un obbligo per gli studenti, e questa è una cosa assurda perché la scuola non può diventare ente esattore a nessun titolo, e questo è un fatto che va sottolineato con forza. Quel contributo è volontario in qualunque caso il consiglio d'istituto delibera eventualmente l'ammontare del contributo volontario, punto e basta, ma resta una contribuzione assolutamente facoltativa. E a questo riguardo, siccome diciamo il malcostume, quasi la malversazione rispetto al contributo volontario è stata, diciamo, è molto diffusa, il ministero stesso ha emanato una circolare che chiarisce esattamente quelli che sono i confini all'interno dei quali si può applicare questo contributo, ed evidentemente ribadisce in primo luogo la volontarietà del contributo e la destinazione del contributo, cioè non può essere destinato alle spese correnti della scuola, ma deve essere destinato a un'offerta ampliata, l'ampliamento dell'offerta formativa rispetto a quella che è quella prevista normalmente, diciamo, curricolare, e diciamo che può essere detraibile, e soprattutto che i genitori hanno addirittura all'atto del versamento nella causale la possibilità di specificare quali sono gli scopi per cui questo contributo deve essere utilizzato e quindi di vincolarne l'utilizzazione. Io personalmente ho girato diverse scuole, alcune, e questa chiarezza di spiegazione nelle circolari emanate via via dai presidi non l'ho mai riscontrata in questo livello di dettaglio. Sì, poi un altro atteggiamento che in molte scuole notiamo è che sotto la spinta del dirigente, della dirigente, vengono fatti degli elenchi di ragazzi che non pagano e quindi vengono convocati in presidenza, in vicepresidenza, nelle segreterie, oppure segnalati in classe dai docenti, che, e quindi, come dire, all'anima della volontarietà, no? Questa, diciamo, con ripercussioni anche sul, non so, sulla relazione tra i ragazzi, tra di loro, tra le famiglie dei ragazzi, tra i ragazzi e i docenti, tra le famiglie e i dirigenti, che sono piuttosto spiacevoli. Sì, vorrei anche aggiungere, visto che forse l'abbiamo dato per scontato, perché insomma per noi lo è, che io trovo anche già abbastanza, come dire, complesso accettare questa storia del contributo, cioè nel senso che poi alla fine è sempre il modo per svicolare da parte dei governi per dare meno soldi alla scuola, cioè insomma il problema resta quello di un finanziamento inadeguato, dei tagli subiti, del rifinanziamento che non c'è stato e del fatto appunto che si lascia passare queste forme che sono appunto, quando lo fai passare come volontaristico, poi nessuno ha niente da dire, però poi alla fine significa avere scuole di serie A e scuole di serie B, perché ci sono scuole con utenze che possono permettersi contributi più alti e scuole che possono permettersi contributi più bassi, ma e poi appunto, come si diceva prima, è una forma di serpeggiante privatizzazione della scuola. Sì, no, ma comunque dalla parte delle segreterie quello che dicevate è verissimo, perché io non mi occupo di didattica, ma quando capita nella scuola dove sto io, dove non vorrei dire cavolate, ma è molto alto il contributo volontario, e si crea una situazione: oh, questo non va a pagare il contributo, mo che famo, no? È una situazione, insomma, brutta, brutta come l'avete descritta voi, io ve la dico come proprio la vivo io. E quasi proprio che, sì, le convocazioni proprio, insomma, sì, si sa con un certo imbarazzo che non lo puoi obbligare, però lo metti o la metti il genitore in una situazione, insomma, brutta, molto brutta. Poi i figli, sembra quasi una presa di posizione, probabilmente a volte lo è, ma è sacrosanta, no? Io come madre l'ho sempre pagato alla fine, perché vabbè, alla fine lo potevo pagare, lo pagavo, poi che cosa mi ci davano in cambio io non ho mai capito, non lo so da madre. Poi dall'interno delle scuole qui ci sarebbe pure da fare tutto un altro discorso, forse molto impopolare, perché poi in Italia quando si chiacchiera e si fanno discorsi altisonanti sono tutti sempre molto d'accordo, però andiamo pure a vedere questo miglioramento dell'offerta formativa in che consiste, perché se mi fai un corso serio di inglese, poi non si capisce perché, visto che lo insegni per 5 anni, è come un'ammissione di inefficienza. Ma tantissime cose, cineforum con 10 persone, così via, che dipende anche dalla scelta dei film, insomma, qui sarebbe proprio da aprire tutto un altro discorso. Allora uno dice: vabbè, io te li do per cui vado a vivere, te li do se te li posso dare, ma ovviamente sappiamo, qui siamo un po' pure al discorso che è un altro che accenniamo, di tutte le storie di bambini non ammessi alle mense perché non potevano pagare la retta. Sì, e si torna sempre comunque su questa storia del contributo alla scuola dell'autonomia disegnata da Berlinguer, qui descritta più volte come la madre di tutti i mali, insomma, non so se di tutti, ma di tanti sì. A parlare del mitico concorso indetto dal ministro Profumo. cioè, mitico perché ne abbiamo parlato un sacco, insomma è anche uno dei punti della manifestazione che ci sarà appunto sabato prossimo, è contro questo concorso. Non stiamo a riaprire insomma tutto il perché i precari e le precarie si sono contrapposti a questo concorso, ma andiamo a vedere delle novità che sono così, delle chicche. Sì, la prima novità mi pare possa essere quella che è stato accolto il ricorso che era stato presentato contro la soglia, diciamo, dei 35 cinquantesimi della prova preselettiva. Vi ricordate la prova preselettiva fatta con i quiz, di cui vi abbiamo così diciamo amenamente reso ragione? Quella prova preselettiva, lo abbiamo detto, prevedeva che potesse essere superata con il raggiungimento di un punteggio di 35 cinquantesimi. Io non insegno matematica, però non è la soglia della sufficienza, è una soglia superiore alla sufficienza. È stato fatto un ricorso, questo ricorso è stato, diciamo, parzialmente accolto, nel senso che il giudice ha dato la sospensiva e conseguentemente potranno presentarsi a sostenere la prova scritta, le diverse prove scritte, anche quei candidati che abbiano riportato un punteggio tra i 30 e i 34,5 cinquantesimi, a patto però che si presentino con l'ordinanza del giudice sostanzialmente alla prova, e a quel punto potranno essere accolti, e poi si sobbarcheranno i vari passaggi, i vari scritti, e dopodiché il giudice deciderà. E questa è, diciamo, la prima novità rispetto al concorso, che dà in qualche modo ragione dei criteri che sono stati impiegati per questa prova preselettiva veramente oramai famigerata. Beh, se vogliamo andare avanti, ce n'è un'altra piuttosto divertente. Ovviamente un concorso, come tutti i concorsi, oltre che dei candidati e delle candidate, ha bisogno dei commissari, commissioni che hanno appunto semplici commissari, aggregati che non si è capito neanche bene chi sono, e presidenti. Ricordiamo a questo proposito che il coordinamento precari della scuola aveva preventivamente lanciato un appello a tutti gli insegnanti ad astenersi da qualunque tipo di partecipazione alle prove del concorso, sia la sorveglianza in molti casi non è stato necessario, e sia evidentemente la candidatura come commissario o come presidente di commissione. Andiamo subito a vedere però cosa si dà in cambio a chi si presta per questa operazione, e in cambio si dà un fisso forfettario per ciascun docente che fa il commissario, che è di 209,24 euro, a cui aggiungere 50 centesimi a prova corretta o a candidato interrogato. 50 centesimi, avete capito bene. Ecco, e quindi voi, chi ci ascolta, penserà: vabbè, nessuno, evidentemente, un po' perché fa il crumiro, un po' perché fa il collaborazionista, un po' perché ti pagano una miseria, nessuno si sarà presentato per fare il commissario a questo esame. Invece no, pensate male, perché sono, diciamo, usciti recentemente, nei giorni scorsi, gli elenchi dei commissari e dei presidenti, e le persone che hanno superato, diciamo, che sono state ammesse a fare i commissari e i presidenti, solamente nel Lazio sono 900, circa 900, 897, non ricordo, comunque 900 persone che sono disponibili a lavorare per 200, un compenso forfettario di 209 euro e a vedersi riconosciuta la straordinaria cifra di 0,50 euro a prova corretta. Ma non solo, chi sono questi 900? A chi è stata data la priorità, la precedenza nella selezione? È stata data a coloro che si sono dichiarati preventivamente disponibili a non richiedere l'esonero dal servizio, cioè a fare il doppio lavoro, a andare sia la mattina a scuola che, si suppone, il pomeriggio a fare il concorso. Ora, questi 900 nel Lazio, visto che la precedenza l'aveva chi non chiedeva l'esonero, supponiamo che almeno parecchi di loro non abbiano nemmeno chiesto l'esonero. Veramente dei lavoratori esemplari. No, ma io mi domando, queste persone che hanno desiderio di giudicare, no? Di sovraintendere, di partecipare alla correzione delle prove agli orali di aspiranti docenti, i precari attuali, quelli che lavorano la mattina insieme a loro, che prenderanno 50 centesimi per ogni candidato, per ogni prova. Ma a questo punto io direi, fate un gesto alto, rinunciate a questa diaria, anzi presentatevi alla commissione come presidente o commissari e pagate qualcosina ai precari, perché loro hanno bisogno dei soldi. Magari non date 50 centesimi, una sottoscrizione anche 2 euro, 5 euro in base a quello che avete in tasca, e così magari l'esame va più liscio. Vabbè, come dire, cose vergognose. Comunque sono stati riaperti i termini, perché è vero ce ne sono 900, ma gliene serve di più, e non se ne... comunque è vero che ci sono queste 900 curiose persone nel Lazio che hanno fatto questa scelta, però c'è anche da dire che non se ne è iscritta a sufficienza rispetto a quelle che servivano, perché appunto i termini erano questi: fare il collaborazionista a 50 centesimi a compito corretto, lavorando preferibilmente mattina, pomeriggio e notte, perché poi i compiti che hai dato a scuola li devi correggere a casa e conseguentemente. Scusate, ma poi per inciso, sulla voglia di lavorare evidentemente quasi gratis dei nostri colleghi, va anche dato, detto un dato, che scade il 5 febbraio, è stata prorogata la possibilità di fare domanda di pensione. Ci sono insomma diverse persone che, avendo maturato i requisiti entro il 2011, i vecchi requisiti prima dell'exploit Fornero, potrebbero andare in pensione e non ci vanno. Allora io posso, sono tutte persone fra l'altro che grosso modo vanno col vecchio sistema, insomma, quindi più o meno tra un do e prendo, stiamo all'ultimo stipendio, qualcosa di meno, poi se non vai a lavorare qualcosa risparmi in più, e poi comunque la libertà non ha prezzo, e non ci vanno. Nella mia scuola c'è una persona sola su diverse che ci deve andare per forza e manco ci vuole andare. Vabbè, può darsi che sia una, io non discuto se magari ti piace quel tipo di lavoro, però poi qualche cattivo pensiero su che tipo di lavoro sia ti viene in mente, insomma. Ecco, così per inciso, quindi questo potrebbe essere un altro aspetto per comprendere questa carica dei 900. Noi fra l'altro, siccome siamo comunque aperte e aperti, e invitiamo sempre a intervenire, ma forse mettiamo soggezione, essendo per i 3/5 professori e professoresse, allora però ci farebbe piacere, oltre, come abbiamo detto anche un paio di settimane fa, che chi ha esperienze kafkiane di tentativo di iscrizione online, oppure in questo caso chi appunto ha deciso di far parte di queste commissioni giudicatrici del concorso per docenti, magari ci chiama allo 06 49 17 50 e ci dice perché, ne discutiamo insieme. Era Boy George, Words Don't Come Easy, però qua dicono che ce n'è una versione precedente cantata da un gruppo. Se qualcuno che ci ascolta si ricorda, se ci telefona allo 06 49 17 50, sì, abbiamo Google, ma ci fa piacere invece parlare con voi. E torniamo in voce, così tagliamo Words Don Camisi con violenza, e sono le 16:54, questa è l'ora di buco, e vi ricordiamo che sabato prossimo tutte e tutti avete un appuntamento a Piazza dell'Esquilino alle 14 insieme a noi, che è la manifestazione Scuola, Sanità e Acqua Pubbliche. Allora, io volevo leggere la piattaforma delle scuole dell'infanzia elementare che aderiranno appunto alla manifestazione nazionale del 2 febbraio, perché diciamo il coordinamento scuole di Roma è composto principalmente da scuole di secondo grado, secondarie di secondo grado, però invece partecipano appunto anche le scuole primarie, e anche loro ribadiscono i tagli che sono stati fatti negli anni, in 20 anni di governo, quindi anche loro come noi insomma la fanno risalire ai tempi della prima riforma Berlinguer dell'autonomia, e appunto la loro piattaforma è principalmente denunciano appunto le ore di compresenza che sono state tagliate, la mancanza di collaboratori scolastici, specie nelle scuole primarie, insomma, che svolgono un lavoro veramente importante, perché si tratta di bambini piccoli, e le classi ovviamente pollaio, oltre 28 alunni per classe, e quindi in più c'è appunto, ci sono spesso bambini con handicap all'interno, e che sono saltate tutte le classi di tempo pieno perché non c'è un numero sufficiente di insegnanti in organico, e quindi questo tempo pieno è ridotto, come dicono loro, uno spezzatino di orari e materie, dove si avvicendano anche 6-7 insegnanti per classe, e non ci sono più gli insegnanti specializzati per la lingua inglese, perché ricordiamo che anche questi sono stati tagliati, oltre 7.000 posti, e ci sono tagli alle ore destinate al sostegno, e c'è appunto, per questi motivi aderiscono e pretendono un cambiamento della politica dei governi, appunto, che non sia più in perfetta continuità con quelli passati, e quindi appuntamento sabato 2 febbraio a Piazza Esquilino alle ore 14. Con questo direi che siamo arrivati in fondo anche per oggi all'ora di buco. L'appuntamento è per martedì prossimo alle 16 sullo 87.9 di Radio Onda Rossa, di cui in chiusura vi ricordiamo il conto corrente postale, perché questa è la radio di chi se la sente, e chi se la sente può contribuire volontariamente a tenere aperta questa radio, e il conto corrente è il 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, ma potete andare sul sito www.ondarossa.info e vedere insomma anche le altre modalità per contribuire, oltre a molto altro. Per quanto riguarda la manifestazione di sabato, potete invece leggere la piattaforma sul nostro blog, che è oradibuco.noblogs.org, e per tutte le domande che vi abbiamo rivolto potete anche scriverci a oradibuco@ondarossa.info. Detto tutto ciò, a risentirci.